A bordo campo di Dario Ricci. Oggi a bordo campo parliamo di cricket perché è un gioco sicuramente poco conosciuto alle nostre latitudini, ma che sta prendendo piede anche perché è il gioco che è veramente una sorta di religione in tutto il mondo anglosassone, anche in quei paesi come Sri Lanka, Bangladesh, India, Pakistan, in cui la cultura del cricket è veramente diffusissima. Quindi insomma, mettete insieme questi elementi e è facile capire che nel momento in cui si parla di questo sport si parla anche di immigrazione e di tutte le sorprese e i problemi che questo tema comporta. Leggo dai giornali di qualche giorno fa: una multa di 150 euro a testa perché giocavano a cricket in un parco di Brescia. È successo a un gruppo di ragazzi di origine pakistana e dello Sri Lanka, tra cui Hussain Fida, nazionale italiano che gioca a Trento in Serie A. Hussain, ben trovato a bordo campo, non starai mica pagando questa multa? No, per il momento no. Buongiorno a tutti. Com'è andata questa storia di questa multa? Che stavate facendo in quel parco di Brescia? Giocavate a cricket, reato gravissimo. Domenica mattina il 13 settembre abbiamo deciso di giocare mattina presto una partita di cricket perché non c'era nessuno, il parco era vuoto per questo. Poi dalle 8 di mattina abbiamo iniziato a giocare, poi verso le 10 e mezza sono arrivati i vigili e hanno detto che non potete giocare questo sport in Brescia e hanno fatto la multa. Insomma, 150 euro a testa, quanti eravate a giocare? Eravamo 12-13. Ah, quindi è pure una bella somma. Da qui è nato anche il ricorso affidato all'avvocato Manlio Vicini, che a questo punto ha dovuto anche impugnare le carte e probabilmente anche la mazza per giocare a cricket. Avvocato, come sta andando questo ricorso? Benvenuto a bordo campo. Buonasera, grazie. Ma il ricorso sicuramente meglio della mazza da cricket, che proprio non è il mio sport. Però ecco, ma sicuramente si è fatto ricorso perché questo divieto è un divieto recente del nuovo regolamento di polizia urbana che è stato approvato dal Consiglio Comunale di Brescia nello scorso giugno e che sanziona tutta una serie di comportamenti, in alcuni casi davvero innocui o che non causano particolari problemi alla cittadinanza. Ultimo caso, per alcuni versi clamoroso, è stato quello delle multe per il cricket. E dico clamoroso perché si tratta di ragazzi che giocavano non con la palla regolamentare da cricket, che effettivamente potrebbe essere pericolosa, ma si allenavano con una pallina da tennis. Ragazzi dai 18 ai 20, a poco più di 20 anni, per i quali la pratica dello sport è un elemento di condivisione di spazi, di socialità, è un'attività sicuramente sana. Ragazzi che avevano solo un difetto, forse agli occhi del vigili che sono intervenuti e di chi ha scritto quel regolamento di polizia urbana, e cioè di non essere italiani ma di essere immigrati. Il cricket, come ha detto giustamente, è sport praticatissimo dei paesi che hanno fatto parte del Commonwealth, quindi Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh, e a Brescia c'è una grossa immigrazione da questi paesi, quindi è normale, è naturale che questa attività sportiva sia un modo per questi ragazzi di stare insieme, di divertirsi insieme, di fare un'attività sana. Cercare di impedirla, di contrastarla, mi sembra francamente inutile e per alcuni versi discriminatorio, perché poi rientra all'interno di un regolamento, diciamo, in cui diverse sono le norme che si prestano a creare disparità di trattamento tra cittadini. Come sottolineava giustamente, il regolamento del comune di Brescia recita che è vietato praticare il gioco del cricket, del pallone e ogni altro gioco potenzialmente pericoloso e lesivo degli altri utenti, tenuto conto delle condizioni di luogo e di tempo e in ogni caso dell'affluenza di altri utenti in questi spazi pubblici, in parchi, eccetera, eccetera. Però da quello che diceva, questa battaglia del del cricket mi sembra emblematica di una tensione che invece c'è tra, diciamo, usiamo un parolone, tra culture diverse e anche tra culture sportive diverse, no? Perché forse si giocasse a pallone si chiuderebbe un occhio, vedere magari i ragazzi pakistani o dallo Sri Lanka eccetera eccetera con uno sport da queste latitudini del tutto sconosciuto crea un po' di straniamento, no? Immagino nel cittadino bresciano Doc. Ma in seguito a questa cosa ci sono anche state lettere sui quotidiani locali di cittadini bresciani che dicono che assistono invece a queste partitelle di cricket dei parchi, che sono anche incuriositi e interessati. Dopo sicuramente c'è una parte della città che, insomma, di fronte alle differenze, alle novità, un atteggiamento di chiusura se non addirittura di aperta ostilità. Dopo vorrei ricordare che la prima squadra di calcio che è stata fondata in Italia, che è stato il Genoa, fondato dei marinai inglesi, e si chiama tutt'oggi Genoa Football and Cricket Club, perché cioè questo sport è uno sport praticato in larga parte del mondo, è uno sport che è vero, noi non lo conosciamo, da noi non è uno sport popolare, ma pensare di vedere in questo un elemento di disturbo nei parchi della città e invece accettare magari partite selvagge a pallone solo perché il calcio è lo sport così tradizionale, popolare nel nostro paese, insomma diventa evidentemente, in una città in cui ci sono delle tensioni sul tema dell'immigrazione, diventa un modo di cercare di discriminare dei cittadini che vanno bene finché sono nelle fabbriche a lavorare, finché sono nelle campagne a accudire il bestiame, e che invece non vanno bene quando poi socializzano, si vedono, vivono la città come qualsiasi cittadino bresciano. Ecco, abbiamo tirato chiaramente in ballo il comune di Brescia, allora abbiamo chiesto all'assessore allo sport del comune di Brescia, Massimo Bianchini, di fare un po' il punto sulla vicenda nella prospettiva proprio del comune, che inevitabilmente si è trovato sì a fare queste multe, ma sta anche lavorando di concerto con le associazioni sportive, le associazioni di immigrati dell'area, per risolvere il problema in via definitiva. Allora sentiamo cosa ci ha detto proprio Massimo Bianchini, assessore allo sport del comune di Brescia. Diciamo che qualsiasi attività che può essere un po' rischiosa per altri ragazzi e così via, che sia il calcio, che sia il frisbee, se qualcuno si mette a giocare a baseball o a cricket riceverebbe lo stesso trattamento. Noi stiamo cercando di attrezzare invece aree dove si possa giocare in sicurezza al cricket, anzi già un anno fa abbiamo già individuato un'area dove realizzare non solo un'area di gioco per allenamento, quindi solo per la corsa e il lancio, la battuta semplice, ma proprio un vero stadio di cricket. L'abbiamo già inserito a bilancio e già in programmato, e questo un anno fa. Naturalmente ci sono tempi tecnici per progettare e realizzare. Ecco, qualcuno dietro a questa normativa varata dal comune che impedisce il gioco del cricket e di altri sport, come sottolineava, nelle aree pubbliche, ha voluto vedere un po' un intento discriminatorio, no? Nel senso che chiaramente la grande novità portata da questo sport un po' estraneo alle nostre tradizioni può aver dato fastidio a qualcuno che associa inevitabilmente il cricket alla presenza degli immigrati, e quindi reazioni velatamente xenofobe. Ma assolutamente, un anno fa non avremmo inserito il cricket tra le autorità assieme al baseball per uno stadio di cricket. Noi siamo nella fase, diciamo, di definizione delle superfici. Se tutto va bene potremmo incominciare a realizzare la progettazione per febbraio-marzo e quindi realizzarlo per fine 2010, incominciare i lavori. Questo, ripeto, è lo stadio di cricket, ma abbiamo già individuato un'ulteriore area dove, in un parco periferico, dove già attualmente è utilizzato in modo improprio per il cricket, ma che noi procederemo ad attrezzare, e questo invece potrebbe trovare realizzazione in tempi estremamente rapidi. Questo Massimo Bianchini, l'assessore allo sport del comune di Brescia. Allora, Hussein Fida, nazionale azzurro di cricket, sembra tutto pronto per poter giocare finalmente a Brescia in tranquillità al tuo sport preferito, che ne pensi? Speriamo che, come dicono, quello che lo fanno anche veramente, non solo le parole, però se penso che lo fanno una cosa così, una cosa bella, è ideale per Brescia, per il futuro di cricket in Brescia. Avvocato Manlio Vicini, siamo in chiusura, insomma le soluzioni sul campo sono, in questo caso le soluzioni sul campo di cricket sono accettabili, crede che poi insomma si potrà arrivare in tempi brevi a far quadrare questo cerchio? Ma per quanto riguarda il cricket speriamo di sì, le aperture che fa oggi la giunta comunale di Brescia sono anche frutto comunque di proteste che ci sono state non più di un paio di settimane fa, una cinquantina di ragazzi che giocano a cricket hanno presenziato il consiglio comunale, hanno chiesto un incontro all'assessore, quindi solo in seguito a questo intervento ci sono state queste aperture alle quali speriamo che seguano poi fatti concreti. Dopodiché sulla discriminazione, insomma, a Brescia non si è mai dato il caso di un ragazzo italiano multato perché gioca a pallone nel parco, mentre le multe etniche per il cricket invece le abbiamo viste. Insomma, record sicuramente non invidiabile. E abbiamo però strappato anche un'ultima promessa all'assessore Bianchini, o meglio, è un progetto a cui a Brescia si sta lavorando, perché non basterà sicuramente creare degli spazi per giocare al cricket e agli altri sport degli immigrati, ma poi dei cittadini, dei nuovi cittadini italiani, bisognerà lavorare sulle culture, sulle coscienze. E allora sentiamo a cosa sta pensando il Comune di Brescia. Noi per il settembre, e facilmente già per il settembre 2010, ma già facilmente per il maggio 2010, stiamo organizzando i corsi di allenamento allo sport rivolto a bambini tra i 7 e i 14 anni, che comprenderanno anche il cricket, oltre tutti gli altri sport naturalmente. Quindi diciamo che non c'è una preclusione, ma proprio perché per noi siamo cittadini, punto. Non c'è una distinzione dalla provenienza, ma sono cittadini. C'è una esigenza di cittadini bresciani per uno sport che noi stiamo, ripeto, ma non adesso, stiamo da oltre un anno analizzando e stiamo portando avanti. E allora l'appuntamento è con l'avvocato Manlio Vicini e con Hussein Fida sul nuovo campo di cricket di Brescia al più presto possibile. Grazie per essere stati con noi a bordo campo. Buonasera. Ciao a tutti. Pronto? Pronto, Alessandro Di Benedetto? Sì, vi sento. Benvenuto a bordo campo. Oggi a bordo campo ci sei tu ospite, ma spiegaci un po' i motivi di questi rumori di sottofondo. Dove ti trovi? I rumori di sottofondo sono per me poesia, perché mi trovo in pieno oceano Atlantico e ho superato le Canarie, ho lasciato a sinistra le isole Canarie e ho la prua rivolta orientativamente verso le isole del Capo Verde che sono davanti a me. Eh sì, perché Alessandro Di Benedetto, spieghiamolo ai nostri ascoltatori, sta cercando un record romano di 38 anni, sta tentando il giro del mondo a vela, in solitario, senza scalo, senza assistenza, su barca di 6,5 metri. Sarebbe un'impresa clamorosa, ma già è fantastico essere in contatto con te dall'oceano. Beh, raccontaci un po'. Ma io sono partito il 26 ottobre da Le Sable d'Olonne, che è un posto mitico per queste partenze oceaniche, e la parte che più temevo per la prima parte era il Golfo di Gascogne, quindi ho anche il Golfo di Biscaglia, e infatti ho avuto un colpo, ho fatto i primi 2 giorni di una bella navigazione verso il Mar Cantabrico, le coste quindi settentrionali della Spagna, e poi però cercando di completare la traversata del Gascogne ho avuto il colpo di coda del Golfo, superando Cap Finisterre con 2 giorni di maltempo, una burrasca praticamente, vento contrario, onda formata fino a 2-3 metri di altezza, però di una certa violenza. Superato Cap Finisterre ho continuato la discesa nell'Atlantico, quindi passando al largo delle coste del Portogallo e quindi raggiungendo, così per intenderci, la latitudine poi di Gibilterra, e ho avvistato, dopo alcuni giorni ho avvistato poi le isole di Madeira, alcuni giorni fa, le Canarie sulla sinistra, che ormai è superato, e ora faccio rotta a grandi linee, ecco, punto la prua sull'equatore, ecco. Insomma, viaggio non da poco, ma spieghiamo ai nostri ascoltatori che Alessandro Di Benedetto non è nuovo a queste imprese, perché è stato già il primo navigatore ad aver conseguito il primato mondiale di traversata transpacifica in solitario da Yokohama, dal Giappone, fino a San Francisco. E poi, in passato, è già stato autore di primati. Nell'agosto 2001 fu il primo a compiere una traversata di 1800 miglia senza scalo e senza assistenza dalla Liguria alle Canarie, e nel 2002 stabilì il primato mondiale di traversata transatlantica sempre a bordo di un catamarano. Alessandro, raccontaci un po' come si svolge una tua giornata tipo in mezzo all'oceano, su una barca in mezzo all'oceano. In genere inizia la notte, no? con la veglia, proprio per evitare gli abbordi in mare, fino a che si fa l'alba. All'alba io faccio una prima colazione, in genere a base di muesli, latte concentrato, latte in polvere che faccio rinvenire con dell'acqua che dissano con un dissanatore dall'oceano, e poi che riscaldo con un bollitore a gas di quelli tipo da campeggio. E poi regolo sempre le vele, questo si fa praticamente in continuazione, e ci si cambia eventualmente, si sta attenti insomma a quello che è l'abbigliamento, a non rimanere bagnati. E poi di nuovo pranzo, con in genere dei pasti liofilizzati che però sono buoni, soprattutto nelle condizioni in cui mi trovo a navigare e vi posso apprezzare. E poi si arriva di nuovo fino a sera e la veglia per la navigazione. Diciamo che la navigazione, prendersi cura della barca e stare attenti comunque anche a se stessi dal punto di vista dell'equipaggiamento, di non stancarsi troppo, di prendere il giusto riposo, di curare l'alimentazione e così via, mi impegna tutta la giornata e non mi stanca, ecco. Senti, come nasce questo amore pazzo per il mare? Ma l'amore penso che sia una cosa naturale, probabilmente dipende dal luogo in cui si nasce o si trascorrono, penso, i primi anni dell'infanzia. Nel mio caso è stato il mare, le coste siciliane, dove insomma trascorrevo tutti i weekend, anche quando si andava a scuola, quindi iniziando a fare caccia subacquea, la prima scuola di vela, e poi avevo insomma avuto dei genitori che avevano navigato e quindi sono stati un po' un esempio, anche se non sono stati loro che mi hanno fatto scuola di vela. E quindi nasce, penso, proprio dal contatto fin da piccolo con il mare. C'è un momento della giornata in cui dici: ragazzi, ma chi me l'ha fatto fare? Ma no, questo no. Mi è capitato, ricordo, nel Pacifico, non di pensare questo, però di pensare di essere comunque stanco e di avere una voglia incredibile di ritrovarmi in un posto, quindi riposare in un letto, in una cuccetta che non fosse soggetta al rovesciamento. In quel momento tra l'altro avevo un catamarano che è più difficile da rimettere, diciamo, dritto, da raddrizzare, che non questa barca ora che è un monocarena, che insomma teoricamente si dovrebbe rimettere su da sola. E quindi però non ho mai pensato a un indietro, anche perché è una cosa che desidero da tanto, e quindi insomma cercherò di portarla a termine con insomma tutti i limiti che la situazione insomma include, ecco. Tante difficoltà in mezzo all'oceano, ma credo che puoi anche goderti delle albe e dei tramonti da brividi. Ce n'è uno che te ne è rimasto particolarmente nel cuore? Ma allora sono tanti, in genere si è più colpiti dalla prima alba che segue giorni di burrasca, giorni di maltempo, però posso dire che sono sempre delle cose che si portano dietro e si assiste a degli scenari che sono indimenticabili, che sono possenti e che io insomma navigo anche per questo, sono degli ingredienti, che delle pillole di energia che poi ci si porta dentro per sempre, anche quando si torna a terra alla vita normale. Di solito si ha per buona scorta qualche delfino o qualche balena, c'è già stato qualche incontro di questo tipo? Sì, nel Mar Cantabrico, ho già incontrato dei cetacei, però era difficile riconoscere, forse c'erano tre piccole balene, Poi ho visto dei delfini, questi di cetacei li ho trovati di prua, poi andavano praticamente nella mia stessa, facevano la mia stessa rotta per qualche nodo in meno di velocità. Questo è sempre bello assistere a questi incontri. Alessandro Di Benedetto, tanti motivi immagino che ti spingano ad affrontare una sfida come questa, ma c'è anche il desiderio di lanciare un messaggio al mondo, all'umanità, vero? Sì, allora, beh, ovviamente la passione è uno degli ingredienti, il principale che mi porta a navigare, a aver fatto le navigazioni che anche tu hai citato, però vi è un messaggio che io ogni volta che mi è data occasione di farlo porto e ne parlo, come in questo caso, è quello degli Stati Uniti del mondo, a volte è stato anche il nome delle mie barche, United States of the World, un messaggio per una cooperazione internazionale democratica dei paesi per combattere i gravi problemi che affliggono l'umanità, primo fra tutti il problema delle guerre, della fame del mondo, dell'acqua, dei diritti umani, il problema del razzismo e poi il problema ovviamente anche ambientale, e penso che i paesi ricchi possano fare tanto in questo senso. Questo è uno dei messaggi che voglio lanciare qui dall'oceano, dicendo alla fine che insomma quello che pensa che i popoli sono molto più vicini delle distanze geografiche che li separano. Alessandro Di Benedetto, grazie per essere stato ospite a Bordo Campo e buon mare. Grazie a voi per l'interesse e per l'attenzione mostrata. Buona giornata. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un ringraziamento a Pietro Lacorte in regia, vi ricordo che potete riascoltarci sul nostro sito internet www.radio24.it e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.